la testa ride. Agamennone, il re, l'invitto eroe, sta per giungere in arco. L'annuncio per tant'anni in vano atteso, ne ha dato una gran fiamma rutilante, saliente al cielo dal lido salico. Per dirtelo, io solo rimarrei. concede, e sapore hanno di sangue. Non indugiamo, allontanati, va! Thank you. Adulte Lascia che io vi dica la mia vita. cancella, e slanci i miei cantari, e mentre io passerò sopra la porpora, non voglio io punirmi su terra. Voto si compia Thank you. Oh. Thank you. ora